In una zona imprecisata dello spazio c'è una galassia chiamata Galassia 1, abitata da popolazioni umanoidi ai confini con Virgin Planet. Qui vive Jezebel, una corsara spaziale che insieme ad altre donne lotta contro una società militarizzata e corrotta. Le armi ideate per loro dal genio di Magnus e Bunker sono satira sociale e ribaltamento della morale. Ce ne andiamo dallo spazio e dal cyberspazio e atterriamo dritti dritti nel cuore della Terra, negli anni 60. Thank you. Luciano Massimiliano Secchi, noto con lo pseudonimo di Max Bunker, è un fumettista italiano. Capostipite del fumetto noir italiano, ha subito una ventina di processi, dai quali poi è stato assolto con l'accusa di andare contro la morale corrente e di istigare con i suoi personaggi al crimine e al delitto. Tra i suoi personaggi più famosi vi è Criminal, che lui stesso descrive non come un feroce criminale, sovvertitore, nemico dell'ordine, ma come colui che dell'ordine si fa beffa, che irrompe con sentimenti negativi, ma comunque notabili, della sua natura umana, in una società che è putrida e stagnante, ammalata di perbenismo. Sconvolge con la sua azione delittuosa i limiti che vengono posti dalla legge, ma in questo modo afferma il suo diritto di scelta, il suo potere di accettare o di rifiutare, di creare o di distruggere. Max Bunker non è l'unico che avrà problemi legali e giudiziari. Molti saranno i processi e le vicende che coinvolgeranno tutti gli autori del fumetto nero. Questo per le caratteristiche del genere, che vuole rappresentare effettivamente un ribaltamento della morale corrente ed andare in controtendenza rispetto al moralismo degli altri fumetti dell'epoca. Il potere giudiziario lo temeva molto, temeva la carica eversiva del fumetto noir, diceva che turbava l'ordine pubblico della famiglia e che incitava alla criminalità e al delitto. L'origine del fumetto nero veniva dai romanzi di appendice francesi e richiamava un eroe francese noto con il nome di Fantax, eroe che in Italia non poté essere totalmente riportato a causa della profonda censura che ancora vigeva a seguito del secondo periodo dopo la guerra. They cry. Too much faith. sisters look too little to men, receive no help from without, need help from within. Modify to improve, give sense to stimulate, recast our foundations, find a need to create. Too much faith in systems, look too little to men, receive no help from without, need help from within. Il fumetto di Max Bunker, Criminal, giunge al cinema nel 1966, presentato e diretto da Umberto Lenzi. Il regista, in realtà, verrà ricordato per la sua trilogia Milano odia, La polizia non può sparare, Roma a mano armata e Napoli violenta. Questa trilogia venne considerata inizialmente dalla critica facente parte del genere poliziottesco, un genere che in Italia era una sorta di poliziesco all'italiana a metà strada con il noir. In realtà del noir conservava solo le ambientazioni, le perversioni della metropoli sullo sfondo di una società corrotta. I personaggi del noir sono personaggi inquietanti e malsani, coppie diaboliche, donne di malaffari, mariti brutali, scommettitori, giovani assassini assetati di giustizia. Lo scopo del genere è quello di far trionfare il male che i personaggi portano dentro di sé, quello di presentare delle ambientazioni oscure e delle persone che siano ricurve sui loro tormenti, portando avanti storie torbide come le loro coscienze. Da questo punto di vista, Il mostro di Düsseldorf di Fritz Lang, il capolavoro espressionista, è una sorta di ponte cinematografico tra l'espressionismo tedesco e il film noir vero e proprio. E in questo film, per la prima volta, si parla della contrapposizione tra la giustizia privata e la giustizia ufficiale, introducendo un riferimento al Tribunale dei Criminali. In questo senso Fritz Lang richiama l'opera Da tre soldi di Brecht, che era ambientata nella malavita londinese, mettendo in scena un attacco alla società capitalista del tempo. Quello che voleva fare con l'opera era quello di scandalizzare il concetto a quel tempo attuale di teatro e decenza e di scandalizzare il pubblico borghese, cosa che, a malincuore dell'autore stesso, non avvenne. L'opera da tre soldi si apre con la parte prima che dice: il pubblico non può più aspettare. Signore e signori, voi vedete di fronte a voi, ancora per pochi minuti, l'esponente di una categoria che esisterà ancora per poco. Noi, piccoli artigiani, che troviamo nel piede di porco l'utensile e nella piccola cassaforte del bottegaio lo scopo delle nostre attività, siamo stati assorbiti dalla grande impresa alle cui spalle stanno le grandi banche. Che cos'è un grimaldello contro un pacchetto di azioni? Che cos'è più grave, svaligiare una banca o fondare una banca? Uccidere un uomo o trasformarlo in forza lavoro? E sì, amici, io prendo commiato da voi e vi ringrazio per la vostra presenza qui. Molti di voi li ho avuti vicino. Mi meraviglia il tradimento di Jenny, ma in fondo non è che la dimostrazione evidente che il mondo resta quello che è, un cumulo di sfortunate circostanze che hanno causato la mia sconfitta. Bene, eccomi sconfitto. Parte prima. Ogni squalo mostra i denti e vederli si potrà. Mackie Messer ha un coltello, ma vedere non lo fa. Il sequestro di Schulmeier è avvenuto mesi fa. Il riscatto fu pagato, forse Mackie lo saprà. Tre bambini sono bruciati nell'incendio giù in città. Mackie Messer è accusato, ma qui regna l'omertà. Sulla strada giace un morto, testimoni non ce n'è. Nei paraggi c'era Mackie, ma nessuno sa il perché. Con un taglio nella gola Jenny Towell si trovò, ma quel sangue vale poco e nessuno indagò. E la dolce minorenne che quel giorno protestò, violentata proprio all'alba, Mackie Dillo, come andò? Con la ballata di Mackie Messer prosegue l'opera da tre soldi di Brecht e introduce il protagonista principale dell'opera, sposato con la figlia di un losco commerciante di mendicanti all'interno di una Londra vittoriana. La canzone è stata reinterpretata da moltissimi artisti ed artiste e nel 1964 fu reinterpretata da Nina Simone, chiamata Jenny dei Pirati, come sottofondo civile ad una futura rivoluzione dei diritti afroamericani. Nina Simone, nota per il suo attivismo nei diritti degli afroamericani, ha scritto anche Mississippi Goddam in relazione e in risposta all'attentato in una chiesa a Birmingham, in Alabama, che aveva ucciso 4 ragazzine afroamericane, e all'uccisione dell'attivista Medgar Evers, ucciso dai suprematisti bianchi che erano contrari all'integrazione afroamericana nella società statunitense. Mississippi Goddam, Alabama got me so upset, Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi Goddam. Questa canzone si chiama Quell'infetto schifo del Mississippi e voglio dire, è un maledetto schifo in ogni sua parola. L'Alabama mi ha sconvolta, il Tennessee mi ha fatto perdere il sonno e tutti sanno di quell'infetto schifo del Mississippi. Lo vedi, lo senti, è tutto nell'aria, non ce la farò più a sopportare la pressione, qualcuno dica una preghiera. Questa è una canzone da show, ma il suo show ancora non lo hanno scritto. Cani sulle mie tracce, scolaretti in galera, un gatto nero mi attraversa la strada. Penso che ogni giorno sarà il mio ultimo. Signore, abbi pietà di questa mia terra, toccherà a tutti. A tempo debito, io non sono di queste parti e non sono nemmeno di quelle. Ho persino smesso di credere nella preghiera. Non ditemi, vi dico, non dite a me e alla mia gente di ciò che ci toccherà. Sono stata qui e lo so, continuano a dire vacci piano, ma è proprio qui il problema, andarci piano, lavare le finestre, andarci piano, raccogliere il cotone, andarci piano, sei solo uno schifo, andarci piano, sei una pigra del cazzo, andarci piano, pensare da pazzi, andarci piano, dove vado, cosa faccio, non lo so, cerca solo di fare del tuo meglio, resisti e sii considerata come tutti gli altri, perché tutti sanno di quell'infetto schifo del Mississippi. Picchettaggi, bambini sulle strade dell'ospedale da campo e poi provano a dire che è un complotto comunista, tutto quel che voglio è uguaglianza, per la mia sorella, per il mio fratello, per la mia gente e per me. Sì, mi avete mentito per tutti questi anni, mi avete detto di lavarmi e pulirmi le orecchie e di parlare garbatamente, proprio come una signora, e avete smesso di chiamarmi Sister Sadie. Sì, ma tutta questa nazione è piena di menzogne e morirete tutti quanti, morirete come mosche. Io non mi fido più di voi che continuate a dire vacci piano, andarci piano, ma è proprio qui il problema, andarci piano, eliminare la segregazione, andarci piano, partecipazione di massa, andarci piano, riunificazioni, andarci piano, fare le cose per gradi, andarci piano, ma causare ancora più tragedie andandoci piano. Ma perché non lo vedete? Perché non ve ne accorgete? Non lo so, non lo so. Voi non dovete vivere vicino a me e allora datemi solo la mia uguaglianza. Tutti sanno del Mississippi, tutti sanno dell'Alabama, tutti sanno di quell'infetto schifo del Mississippi. E questo è quanto. We'll be right back. contrastare la dilagante durezza degli animi, il commerciante Jonathan Jeremiah Peachum, padre di Polly, la sposa di Mackie Messer, aveva aperto un negozio per rifornire più miseri mendicanti di un aspetto capace di smuovere anche cuori più insensibili. La parte seconda dell'opera di Brecht, dell'opera da tre soldi, si apre con il monologo di Jeremiah Peachum. «La mia situazione deve cambiare. Purtroppo la mia attività non naviga in buone acque, perché nel mio mestiere io faccio appello alla compassione degli uomini. Per toccare il cuore umano ci sono dei modi, non molti, ma qualche accorgimento esiste. Tuttavia, dopo un po' che lo si usa, non funziona più. Perché? Perché l'uomo ha questa abitudine. Quando si lascia commuovere, non dura molto». Ad esempio, se all'angolo della strada vedo un tizio con un braccio monco, gli prende un tale sconforto che è subito portato a dargli 10 penny. La seconda volta che lo vede, gli darà al massimo 5 penny. E se lo rivede una terza volta, chiama direttamente la polizia. Lo stesso avviene con gli slogan a sfondo spirituale. Dare è più cristiano che ricevere. Noi cerchiamo le espressioni più forti e le più azzeccate e le scriviamo anche su pezzi di cartone e con molta cura. Solo che dopo un po' non funzionano più. Nella Bibbia ci sono degli insegnamenti che toccano profondamente il cuore, 4 o 5 precetti. Ma se li usiamo troppo, si resta veramente senza pane. Prendiamo ad esempio, date e vi sarà dato. In solo 3 settimane che lo facevamo circolare, si è completamente esaurito. Bisogna sempre trovare qualcosa di nuovo. Magari basta cercare ancora nella Bibbia. Sì, ma quanto potrà durare? La ballata di Maggie Masser è stata ripresa anche da Nick Cave nella sua Mack the Knife. Nel 1982 Nick Cave ha collaborato con Lydia Lunch ed hanno pubblicato l'album Honeymoon in Red. Lydia Lunch si era già distinta nel 1978 a New York ed era entrata a far parte di quegli artisti e quelle artiste che stavano definendo un sound dai netti contorni del noir metropolitano, un sound che narra di alienazione e contraddizioni di una società postmoderna destinata ad essere vittima di se stessa. Ed è con una traccia di Honeymoon in Red che concludiamo il nostro viaggio di questo mercoledì. Buon ascolto! Now the